E il muro di omertà che c'è stato per un lungo periodo all'interno del corpo dei carabinieri, non di tutti, è dimostrata dal fatto che la verità è emersa dopo 10 anni. Allora, perché il corpo dei carabinieri in parte ha mostrato omertà. Tant'è che ci sono state le scuse del comandante generale dell'arma. Ci sono state le scuse del comandante generale dell'arma. Ha capito o no? Il comandante generale dell'arma ha chiesto scusa. Hai capito o no? Hai capito o no? Il comandante generale dell'arma ha chiesto scusa. Hai capito o no? Stai parlando in tedesco? Parla! Parla! Il processo! Parla! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao, sono Sebastiano Barisoni, Radio 24. E questa volta non sono solo. Ciao, sono Gianmarco da Roma e anch'io mi nutro di succo bulbare. I love my radio. I love my radio. No, ma io ce l'ho di là la mascherina. Vado in giro, vado a letto se vuole con la mascherina, se la rende tranquillo. Detto questo, se si vuole criticare pregiudizialmente qualunque iniziativa organizzata dalla Lega, no, l'iniziativa lo si può bene, fare. Era lei che si toglieva la mascherina. Ma io per parlare, ma me posso togliermi la mascherina mentre parlo? Qua si faceva una foto, guardi qua, era solo per farsi una foto. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No. No? E se non sta 1.5 meters, no? No? Allora... Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No. No? E se non sta 1.5 meters, no? Allora... La mascherina, no! No? No? E mi voglio levare questa cazzo di mascherina! Ecco la vostra mascherina del cazzo, che non riesco neanche a bruciare, ma la brucio, la voglio bruciare, questa mascherina, mi aiutate? No, no, non riesco a bruciarla! Ciao a tutti, sono Samantha da Cernusco sul Naviglio. Anch'io sono interessata alle seghe coi piedi. Love my radio. È un ascensore di Brescia leghista. Un pezzo di merda, eh. Dica, parli, dica. Sì, io vedo molto negativo. Di essere stato accusato di essere un fasciolichista perché dicevo fate attenzione ad aprire l'hai le frontiere. L'hai fatto qui da me in studio. Perché in quel momento il politically correct era che non bisognava chiudere le frontiere. Adesso il politically correct vorrebbe che le mascherine non ce le togliessimo mai, come una museruola i cani. La mascherina è un oggetto molto pericoloso, innanzitutto perché il massimo, questo lo dicono i grandi virologi, non un povero medico legale come me, La mascherina è un pabulum micidiale di concentrazione di Covid, se c'è. Noi, Alessandro I, al secolo Alessandro Meruzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, antico orientale. Allora ragazzi, noi sempre qui, Monterosa 91, 20149, Milano, grazie, grazie, grazie. Siamo in gentile attesa che un signore, David Parenzo, in collegamento da Padova, come durante tutta questa settimana, ci faccia la grazia di venire qui in diretta invece che di registrare la trasmissione della signora Gruber. Della signora Gruber. Sta registrando in questo momento, sembra, dalle notizie che abbiamo da Padova, notizie non certe, notizie vaghe, iniziamo, non iniziamo, eccetera. Siamo in attesa e potete sentire dalla voce che sono visibilmente incazzato. Visibilmente, ma non riesco a nasconderla questa cosa qui. Sono visibilmente incazzato. Siamo in gentile attesa che un signore, chiamasi David Parenzo, ci faccia la gentile concessione. La gentile concessione di venire qui nella fottutissima diretta di questa disgraziata trasmissione. Dunque siamo tutti appesi qui al fatto che un messaggio arrivi. Sono pronto, perché sta registrando la famosa trasmissione 8:30. 8:30 sulla rete La 7. Chiaro? Siamo in attesa di questa. Nel frattempo, mentre il signore magari ci fa la gentile concessione di venire qui in diretta, se vuole, siamo sempre qui in attesa, vi faccio sentire il governatore del mondo, perché ha detto due paroline sui famosi stati generali. Famosi stati generali che sempre secondo Parenzo dovrebbero servire a risolvere i problemi di questo paese, a dare un grande contributo, gli stati generali di Conte. Una pietra definitiva tombale l'ha messa il governatore del mondo. Si stanno preparando a Roma gli stati generali sull'economia, che da quello che leggo sui giornali dureranno 10 giorni. Se qualcuno di noi aveva dubbi sulla decisione di sburocratizzare tutto, credo che la decisione di un confronto della durata di 10 giorni tolga ogni dubbio. I said, are you gonna be my girl? Davvero siamo entrati nella società digitale pienamente. 10 giorni sono in genere la durata di un concilio ecumenico. Avremo motivo di grande consolazione dopo questi giorni, dopo questa sorta di concilio di Nicea da cui credo riceveremo tante, tante certezze e soprattutto tanta semplificazione del nostro paese. Intanto Porro contro i Moretti, un rincoglionimento generale, l'idea è di togliere i cioccolatini Moretti in Svizzera, Porro. C'è un'azienda svizzera che ha tolto dal commercio i cioccolatini Moretti. Voi vi rendete conto il rincoglionimento a cui siamo arrivati? Allora, noi siamo nel mondo in cui rompiamo i coglioni alle scatole di Cristoforo Colombo, zitti e muti perché c'è soltanto un boxino oggi sui giornali, a questa merda del proprietario di Zoom che vive in California sicuramente con la sua Tesla, che impedisce una video party a dei patrioti cinesi che volevano ricordare Piazza Tiananmen. Avete capito cos'è Zoom? Avete capito lo strabismo del nostro mondo? Va bene Cristoforo Colombo? No, lo uccidiamo. Va bene Via col Vento? No, non la vogliamo vedere. HBO e Zoom? E Zoom che impedisce che si vedano tra di loro i cinesi, come la consideriamo? Ovviamente niente, facciamo finta di niente, facciamo finta e continuiamo tutti i giorni ad inginocchiarci, a pensare alle minchiate e non che la nostra tecnologia, altro che l'intelligenza artificiale, ragiona da comunista come questo Zoom. Detto questo ragazzi, nella puntata di ieri abbiamo assistito ad una rivelazione clamorosa, cioè proprio sul finire della puntata di ieri. Cioè, non parliamo di cose di attualità, parliamo di cose che possono andare bene sempre. Allora, il grande regista Hard Mario Salieri, il grandissimo regista Hard ci ha rivelato una cosa che era nella mia testa da un po' di tempo. Moana Pozzi, il nostro mito del porno, il nostro mito assoluto di tutte le generazioni, eccetera eccetera, era una pippa sul set, una pippa pazzesca, un pezzo di legno. Ma una delle delusioni più grandi che hai avuto da parte, che ne so, di porno attrici, qual è stata? Una donna che ti ha deluso, che poi si è ritirata? Una delusione. Ah, ma perché? Pozzi. Perché è una delusione? Perché era una donna estremamente intelligente, estremamente piacevole, sì, con cui si conversava, una meraviglia, ma sul set, da un pur, sulle scene di sesso era, sì, una statua, cioè era una cosa veramente indescrivibile. Per riuscire a tirare fuori qualche emozione bisognava lavorarci tantissimo sopra. Io potevo essere stipendiato. Le tecnologie Nissan sono pensate per darti più sicurezza e meno stress. E ora, anche le nostre offerte. Con Nissan Together hai assistenza stradale gratuita e le prime 4 rate a solo un euro al mese. Oggi, Micra Accenta benzina tua a 179 euro al mese con finanziamento Together e permuta o rotamazione. TAN 599, TAG 506 anziché 8,03, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria per una consulenza personalizzata. La Zanzara. Pippe. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Niente, dalla puntata di ieri che mi immagino la Carfagna che mi sculaccia e mi dice: metti la mascherina, si metta la mascherina. Giuseppe, aggiornamenti da David, non si vede ancora all'orizzonte, non... è ancora della gruppa. Bene, bene, bene, vai, vai. Cruciani, ma tu sei una latrina proprio, sei una contraddizione vivente. Vuoi far finta che sei tutta questa libertà, che sei tutto questo estremismo, sei tutto che sti cacciate palle di qua, cacciate le palle di là, e poi tu fai tutto questo, sei una contraddizione vivente. Se tu sentissi ogni parola, ogni registrazione che tu fai, sei proprio, non lo so, cioè, secondo te, che definizione ti dovrei dare a te. Non mo mi metterei in ginocchio davanti a chi sto registra, altro che quell'americano nero che è stato ucciso. Poi fai finta che sei umano, sei una persona che c'ha il cuore, sei una persona che fa libertà, sei una persona... Tu sei una monnezza e monnezza, non lo so perché. Io penso che pure la tua discendenza dietro è partenopea, parte qua, tu sei una loto. Secondo me qualcuno del sud ti ha fatto rimettere ad hoc delusione rettale. Questo è perché tu ce l'hai. Perché non riesci a capire tutta questa rabbia, tutta questa cosa che tu tieni senza un senso. Allora il senso che ho capito io, secondo me, è questo. Qualche delusione rettale. No! Ora adesso ragazzi non rompete i coglioni con i monopattini, perché leggo da qualche parte che siccome è morta una persona di 60 anni dopo un incidente in monopattino, per cui hanno dato dei bonus eccetera, vogliono mettere delle regole. No, nessuna regola, non bisogna mettere alcuna regola, i numeri chiusi eccetera eccetera, ognuno si assume le responsabilità. Prendi un monopattino, ti schianti, chi se ne frega, nessuna regola, libertà di comprare tutti i monopattini che volete. Tutti i monopattini che volete, tutti, fino all'infinito, città piene di monopattini, va benissimo, ognuno si muove come vuole e ognuno crepa come vuole, anche il monopattino. Crepassero tutti, non mi dire non lo prendo perché c'è il rischio, l'altro giorno ho fatto un incidente col motorino, mi stavo sfasciando tutto, figuriamoci se prendo il monopattino dove sei completamente esposto. Ma non cominciate a rompere i coglioni, i numeri chiusi, i limiti, le regole, no, monopattini all'infinito e ognuno è libero di schiantarsi come vuole. Ciro da Napoli, vai Ciro, vai. Pronto? Dimmi Ciro, dimmi. Ciao Vespasiano. Dimmi, coglione, dimmi. Senti, volevo dire che ieri hai fatto mezza trasmissione sugli orologi di Napoli. No, no? Non ho fatto mezza trasmissione su nulla, non ti preoccupare. No, ma è una tradizione, tutta le tradizioni, anche tu in famiglia le tradizioni. Sì. Tu hai, hai detto che ti avessi inginocchiato a quel Sileni, no? L'avessi no, io fatto. Mi sono inginocchiato davanti a Mario Salieri perché è un grande regista, uno dei miei miti assoluti. Pensa a tua madre, sta tutta la vita inginocchiata. Mia, no? Madre, mia madre non fa, di solito non fa la suora, non fa la suora. Sì, cioè, fai bambina, fa la sta tutta la vita inginocchiata. Quello sicuramente li ha fatti, ma non si vergogna di averli fatti, dato che non è. No, scusami, Ciro, non mi pare, non mi pare che sia fare i pompini. Mica Monterosso 91. Sì, ma non mi pare, Ciro, non mi pare che fare. Ma sapete che ci dico il motorino. Sì, ma non ho capito. Mica Monterosso 91 in Milano. E beh, che c'entra, scusa? Ma quello lo sanno tutti, coglione, lavoro qua. Che c'entra? E allora? E allora non ho capito. Dunque? Ci dico il motorino. E allora? Sì, anche sì. E allora perché? Che cosa vuoi sapere? Che vuoi? Mi minacci? Non ho capito. È una minaccia. Che è una minaccia. Mica sono un bastardo. Che fai? Che fai? Il trasfertista anche tu? Che fai? Io sono un trasfertista, sì, bastardo, sì. Cioè, sei un trasfertista, c'è uno che va a rubare gli orologi in altre parti d'Italia, che fai? Sì, ma tu dove sei? Sei grande dietro. Non ho capito, tu ammetti tranquillamente di essere un trasfertista. Cioè, tu sei un trasfertista. Certo. Cioè, tu sei uno. Un bastardo. Cioè, ma io sarò anche un bastardo, ma tu sei un trasfertista. Ma sì, cioè, ma tu stai. Male, dici tu. Allora, guarda, io comparenzo, no? Politicamente parlando, siamo lontani. Sì, ma non ho capito. Spieghiamo bene, questa cosa, Ciro. No, ma spieghiamo bene questa cosa. Tu fai. C'è il valore della famiglia. Sì, e tu hai il valore, è il valore del furto. Io lo so che è un gioco che fate, no? Anche per il successo della trasmissione, perché uno dice una cosa e l'altra. No, ma voglio capire. Non hai imparato niente da Parenzo, lui è un vero uomo, sai stendere la famiglia, tutte queste cose che puoi fare. Credi, no, che tu, Ciro, non ho capito, tu sei un trasfertista o no? Sei un trasfertista o no? Sei un trasfertista o no? Sei un ladro o no tu? Sei un ladro o no? Sei un ladro o no? Sei un ladro o no? Ti permetti di andare a mangiare tutti i giorni al ristorante, ma tu sei un frustrato della vita, ma lo vedi quanto fai schifo? Allora, sei un trasfertista, hai detto di essere un trasfertista. Ma tu sei un bastardo nato. Sì, d'accordo, tu sei un trasfertista, giusto? Sei un trasfertista? Ma tu perché non mi denunci? Così ci no, vediamo. Ma sei tu che l'hai detto esplicitamente. Tu hai detto solo un trasfertista. Ma io ti sto offendendo. Ma che cosa rubi? Che cosa rubi? Che cosa rubi? Io. Che cosa rubi? Io vorrei rubare te. No, va bene, quello là d'accordo. Quello d'accordo. Ti posso anche dare. Ma tu non te la. Ma io penso che ancora un po'. Poi ti devono mettere la sforza, bastardo. Tu hai bisogno. Ancora un po' e poi ti metteranno la sforza. Te, capito? Può darsi, questa non credo. No, non tu credo. Non mi sento così importante. Tu sei bruttato della vita. Tu non vali niente. Ciro, non ho capito. Ma è vero che quei due. È vero che quei due venivano da Napoli o no? È vero che venivano da Napoli quei due o no? Ieri mattina e l'altro ieri hanno fatto dei brizzi in Calabria. Decine, no? Hanno arrestato decine di persone. Benissimo. E tu ieri sera hai fatto mezza trasmissione su un orologio. Sì, tuo ma padre era un grande figlio di puttane che può ti essere. Ha messo a morte perché può tuo essere. Padre è più bastardo. Mia nonna non risulta essere una prostituta di strada, ma non mi sarei cioè non è una cosa che mi avrebbe offeso perché è un lavoro nobile, capito? Al contrario di quello ma che puoi pensare. Ma a te tu sei tutto all'incontrario. Comunque di tutto. Tu sei un trasfertista, tu no? Tu sei un trasfertista, giusto? Allora Ciro, giù un attimo, sei un trasfertista o no? Cioè sei uno che viene qua a fare i furti o no? Viene qui al nord a fare i furti? Che hai della vita, tu sai qual è? Quando ti chiudi il telefono. No, non sto chiudendo il telefono, stai parlando da 10 minuti. Puoi fare tu perché sei in via Monterosso 91, sì, Milano, ma zona Piazzale Lotto, zona San Siro, via Monterosso 91. Ma tu conosci bene la zona, mi sembra, no? Conosci bene gli orologi di questa zona. Non lo so, mai l'ando, non lo so. Mai l'ando come la chiami tu. Quanti orologi hai fatto qua? Quanti orologi hai fatto venendo qua? Ma sai, ancora un po' ti metteranno la scorta, ti sai. Sì, ma quanti orologi hai fatto venendo qua? Spiegami. Hai visto quando fai schifo? Ma chi ti scopo? Ma quanti orologi hai fatto? Ma quanti orologi hai fatto venendo qua? Io vedi giovedì sera mi fai schifo, ma stai bene, ti saluto, ma fatti una cosa. No, ma io sto benissimo, non ti preoccupare, a parte qualche acciacco sto benissimo. Ma visto ieri sera, ti ho visto proprio dei periti. Ah, segui, però, segui. Stai a seguire la televisione e tutto, non c'è un cazzo da fare, certo. Ma te l'ho detto che politicamente sono Fai il trasfertista, sei il trasfertista. basta. No, Parenzo, Parenzo, io lo rispetto perché è un uomo, ha un valore della vita, dei figli. No, io stasera non lo rispetto, lo mando a fare in culo, è diverso. Ma perché tu a confronto a Parenzo, no, tu sei una merda, potresti può essere, a può essere. Gioco della no, ma io vorrei tornare, Ciro, no? vorrei tornare all'origine. Tu hai Monteroso, no, no, tu, sei un bunker. Sei un trasfertista o no? Sei un trasfertista o no? Edoardo da Lione, Edoardo da Lione, città a me cara, dimmi Edoardo, dimmi. Sì, visto che non c'è Parenzo, no, Parenzo c'è, figa. Ma sti cazzi, adesso lo tengo fuori fino alle 7:15, non so se c'è o non c'è, ma lo mando a fare in culo perché mi ha rotto i coglioni. Parliamo di figa, parliamo Edoardo, di figa, dimmi. Sì, sì, dimmi, sì, dimmi. Sì, volevo parlare della figa quando spurpa, cioè quando fa i peti vaginali. I peti vaginali, cioè, sono un ottimo argomento, i peti vaginali. Mamma mia, quando chiavi, hai presente quando chiavi, no? Che sì. Fa quel suono lì, mamma mia, mi carica proprio a botta, a bestia. Ma che cos'è ti carica? No? Che cos'è che ti carica? Ma di che cosa state parlando? Stai scusa. Zitto tu, non c'entri un cazzo. Vai a Edoardo, fare in culo, dimmi. Parenzo. Bravo, mandalo a fare in culo, mandalo a fare in culo, Edoardo. Ma che porcheria. Ora io sto qua che ti aspetto da tutta la settimana. Ma mandalo a fare in culo, giustamente. Vai a fare in culo, bravo, bravo, vai a fare in culo. Giù il microfono a Parenzo. Edoardo, di che volevi parlare? Di che volevi parlare? Scusa. Di sti cazzo di peti vaginali. Sono stupendi i peti vaginali. I peti vaginali sono meravigliosi. Se uno non li ha provati, sono da provare. Ma te sei matto, Parenzo? Quando c'è la tipa sul tavolo, ma provaci tu con tua moglie piuttosto. Quando c'è la tipa sul tavolo, ma vergognati. Ma i peti vaginali vengono naturali, a 200 all'ora. Ma vengono naturali, però. Ma come si fa a dire una cosa? Dipende da quanto vai forte, ma anche dalla posizione, secondo me, perché ci sono delle posizioni in cui non escono mai. Sì, ma dipende dipende ovviamente dall'area che si fa entrare quando tu spingi, questo è chiaro, no? Comunque tu sei Edoardo, mi sembra di capire che sei un amante di peti vaginali, giusto? Ma io li adoro, cioè, quanti anni hai? Quanti anni hai? 26. Amico mio, ti abbraccio fortissimo. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Dei sogni inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Tati! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Amico mio, va bene tutto coso, frate, minchia, però come si fa? A Eremix stava facendo rovesciare, stava mangiando. Giuseppe, ma dice vero? L'allo c'è in tuo culo. Vuoi dire tu in tuo culo, Giuseppe? Cioè, su queste cose mi dispiace pure a me, ma sono parenziano. Ma chi fai gogne, Giuseppe? Ma un babbiare queste cose, frate, non faresti cose per vestite proprio. Maronna mia. Disse cose francesche su Peppe, cose francesche proprio. I veri italiani non sono froci, questo è pacifico. Poi ci stanno alcuni che dirazzano, e pazienza. Va bene? Cruciani, agli stati generali voglio Pina Pitone. perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Che voglia di cazzo, mamma mia. Intanto ti faccio risentire David De Luca sugli Stati Generali, perché è un genio assoluto. Cioè, su questa kermesse inutile, ma ridicola. Forse perché non lo hanno invitato, no, si è arrabbiato, allora non lo so. Ma non ci sarebbe andato. Secondo te De Luca, il governatore del mondo, il governatore della Campania, va a fare una sfilata, una buffonata del genere? Secondo te una sfilata di pareri inutili, pareri? E che cazzo vuol dire? L'Italia finalmente conta. Ma l'Italia conta. Ma non ti vergogni? Ma non ti vergogni di leccare il culo al governo Conte? No, una leccata di culo pazzesca. Dato di fatto, è un dato di fatto. Sono venuti da ma che vuol dire sono venuti? Ti invitano, non vieni, europea. Che vuol dire? Allora... Beh, insomma, l'Italia oggi è al centro della scena internazionale. Ma non dire cazzate, questo, ma vergognati. Questo è un dato di fatto. Ma vergognati. Poi bisogna trasformare queste, tutto questo no, in atti Luca, concreti, sì, i soldi certo, agli italiani. Sì, però certo, questo sì, è un dato di fatto. Sì, è un dato di fatto. È un dato di fatto. Si stanno preparando a Roma gli stati generali sì, sull'economia, sì, sì, che da quello che leggo sui giornali dureranno 10 giorni. Se qualcuno di noi aveva dubbi sulla decisione di sburocratizzare tutto, credo che la decisione di un confronto della durata di 10 giorni tolga ogni dubbio. Davvero siamo entrati nella società digitale pienamente. 10 giorni sono in genere la durata di un concilio ecumenico. Avremo motivo di grande consolazione dopo questi giorni, dopo questa sorta di concilio di Nicea da cui credo riceveremo tante, tante certezze e soprattutto tanta semplificazione del nostro paese. Grande, devo dire, ragazzi, ma è proprio incarna in toto il pensiero dell'italiano consiglio su questa buffonata. È divertente. Ma consiglio no, ma liceo. È un genio, è un genio. Perché dice: ma che cazzo di bisogno c'è di convocare questi signori per 10 giorni? Ma che cazzo è il congresso di Vienna? Ma dai, su, magari ridicolaggine è. Non frega un cazzo a nessuno. Meluzzi. Beh, no, quello frega. Senti, però, Meluzzi contro Amenfuso. Perché ieri ma sera. Perché lo fanno ancora ieri parlare? Ieri sera dritto e rovescio. Meluzzi a un certo punto ha detto che la mascherina è micidiale, una museologia. Sembrava una puntata dei nuovi mostri ieri. Beh, amico. C'era Meluzzi. C'erano vari mostri. Sì. No, c'erano vari mostri. No, no. A noi apparteniamo al mondo del talk. Di quello, come dire, di quello più popolare, diciamo, del talk, quello più popolare. No, ma non c'è bisogno di dire nuovi mostri, perché invece gli altri che fanno gli intellettuali, perché voi che fate gli intellettuali, i ragionatori. Beh, no, invece, però i ragionatori, voglio dire, Meluzzi, voi che siete i ragionatori. No, dai, ma io parlo dei contenuti, non mica arrivato, quello che dice Meluzzi, i contenuti. Dai, no, ma ha twittato delle fake news, è un ballista. È uno noi che parliamo ha... con Giuseppe Cruciani. E ho collegato con Sara Manfuso, che è venuta in studio. Benvenuta Sara. Sì, poi... È rimasto con noi Maurizio Belpietro. E ho collegato da Roma Alessandro Meluzzi. Ma pensa che culo. Ecco. Pensa noi, che culo. Alessandro Primo. Appunto. Ho capito, io veramente conta quello... sono senza parole, che Meluzzi, ecco, brava. Ricordo che lei elencava tutta una serie di dispositivi, strumenti, facemmo anche una battuta, io la ricordo ancora, lo scafandro, le dissi, ma dottor Meluzzi, ma che dobbiamo mettere? Lei elencava questi dispositivi per proteggerci. E nelle rianimazioni doveva essere messo. E adesso, lei viene e nelle a fare la critica della mascherina. E nelle quindi, rianimazioni vabbè, doveva questo essere questo è il messo. Mantra per cui si ripete la stessa frase finché l'altro però, lo conosciamo però, Meluzzi, su. Bisogna che l'umanità riprenda a vivere, se no ci estingueremo, si estinguerà la Morani, si estinguerà la signora Manfuso, si estingueranno i loro figli, perché anche gli esseri lei, umani Meluzzi, non possono tra di loro rimanere di in uno scafandro. Io spero che lei abbia qualcuno che la bacerà, signora, perché voglia, sennò ne credo parecchi, che anche lei si estinguerà. Meluzzi, non credo anche che abbia problemi la signora Manfuso, neanche la signora Morani. Che la bacerà senza scafandro, voglio dire. Ah beh, questi no, saranno no, piace, a noi piace con. Con lo scafandro. Piace con, bacio con lo scafandro. Questa perversione, Meluzzi, è un po' fetiche, vuole fare. È una cosa fetiche. Allora, vi faccio vedere un servizio e poi vado dalla Morani che vedo che giustamente sorride. Allora, io credo che la Manfuso non volesse dire che lei piace essere baciata con lo scafandro, comunque non piace essere baciata con credo, a meno che non le piacciano delle cose bizzarre, delle cose strane la signora Manfuso, che ne so, un fetish estremo, anche perché essere baciati con lo scafandro non c'è il contatto della pelle, magari ama il contatto della pelle, no? Non della pelle umana, della pelle. Sì, quella, ma dico, no, come si cuoio. Fa a confrontare, a invitare uno come Meluzzi che ha scritto quelle cose su Bill Gates ancora? Ma non lo so, ma perché? Non mi interessa. Perché scrive, io non lo inviterei mai, scrive delle puttanate. E non lo invitare, cioè, altri, cose false, lo invita, altri lo false. Invitano. Ma bisogna dirlo però, dice, guarda, lei è quello che ha scritto queste cose false. Poi parliamo del resto. Ma perché ogni volta bisogna ricordare, lei ha scritto di questo, lei ha perché? Detto di quest'altro? Perché, lei, che perché dice, dire? Se no uno pensa che sia una persona vera, reale. Ma invece certo uno che è vera, guarda, reale. No, dice, se no uno lo prende quasi sul serio, invece uno lo deve prendere sul serio. Avanti, Jason. Dove metti proprio il sottopancia, sì, mentre lui parla. Sì. Attenzione, questo signore dice puttanate. Allora, così si può evitare col crollo che passa. Ho deciso di intervenire raccontandovi l'esperienza che ho appena avuto un'ora fa. Sì. La prima escort post coronavirus. Stupendo, ragazzi. La prima escort post coronavirus. Vabbè, ma sei anche, in ritardo, però. Sei anche in ritardo. No, per me è la prima, se permetti, non è che dispongo di grandi soldi come te. No, che... ma non è tanto una questione di soldi, è questione che le escort hanno cominciato a lavorare già da un po' di tempo. Evidentemente hai aspettato un po', avevi tempo. Purtroppo ho aspettato un po', oggi avevo tempo, sono riuscito ad andare, sono andato con una cicciona che è ancora andato l'anno scorso, la famosa categoria Chubby, la conosci la categoria Chubby? Chubby no, che categoria Chubby, è? Chubby, sì, sì, sì, sono quelle grassottelle, Quelle allora, grassottelle, sì, Chubby. Ma come l'hai scelta, su internet? Sull'internet? Su internet, sì, sì, ma ero già andato più o meno un anno fa con questa mia portoghese. Portoghese? Si presenta portoghese, sì, ma sì. Ma dove? Si a Milano? Presenta... Dove? No, in provincia di Milano. Provincia di Milano, si presenta? Si presenta con questa specie di panciera e completo intimo. Sì. Io ero carico a pallettoni e le ho chiesto di rivestirsi e di farlo lentamente. E lei mi fa, ma perché amico mio, perché vuoi tu rivestirti? No, tu rivestiti. Io mi sono messo sulla sedia e intanto la vedevo rivestire. Ho detto, ma perché la galleria degli orrori? Non ho capito, ma perché lei ha detto di rivestirsi? Non ho capito. Perché vedo queste donne formose in giro, sui mezzi pubblici, eccetera. No, ma perché lei ha detto di rivestirsi? Cioè, come fai a avere un... Perché mi piacciono di più le donne, non adesso che c'aveva i tacchi e questo completo indietro, invece volevo un abbigliamento casual, sai, tipo approccio casual. E dopodiché l'ho risvestita, proprio è stata una cosa completa. Cioè, te ti arrapa a vedere prima la donna cicciona tutta vestita normale. Cicciona tutta vestita e poi svestita che si sveste molto lentamente e ti abbraccia come se ti avvolgesse, ti dà un senso di protezione anche, no? Una cosa esiste anche questo, caro David, esiste anche questo. Anche questo, ma ragazzi, esiste l'orrore, sì, certo. Ma non è l'orrore, è la realtà. Esistono le patologie, certo, sì, esistono. Non è la patologia, questo gli piace andare ogni tanto con una cicciona, Jason, non penso che vada sempre. Ma voglio dire, esistono delle patologie, uno può convivere con le patologie. Ma io convivo ad esempio con una persona normalissima fisicamente, a me mi ha rotto i coglioni, posso dirlo. Ogni tanto bisogna andare a cambiare, una volta provi l'asiatica, una volta provi la cicciona. Se si potesse, visto che voi avete una trasmissione che potrebbe essere veramente, potesse magari mettere qualche annuncio in più con qualche nana, che io ancora non sono mai andato con una persona con una nana. Sarebbe veramente per me l'apoteosi, perché cioè tu vorresti andare con una nana, difficile, con una nana, amico mio, una nana. Signor, ma tu sei mai stato con una nana? Io voglio andare con una nana, ma non credo sia possibile. Comunque, la cosa importante, queste cose le chiedono tutte a te. Queste perversioni, nessuno a me si permette di chiedere. Ma io sono sicuro che tu sei un maiale di ma voglio dire, nessuno si permette a me di chiedere, ma lei lo fa? Giustamente l'interlocutore per questo tipo di operazione. Senza essere querelato, io sono più che sicuro che a David Parenzo piace lo scat. No, lo scatto non credo. Lo scatto di anzianità. Lo scatto di anzianità. Sì, lo scatto di anzianità, sì, ma lo scatto purtroppo non avrò mai, perché non sono dipendente, quindi non avrò mai. Però gli scatti di anzianità possono anche piacergli, in teoria, forse, che non avrai mai. Lo scat, che è una pratica sessuale che noi ampiamente di cui anzi non abbiamo mai parlato. Vai a vedere scat, ma non credo ti piaccia lo scat. Ti posso dire, non ti piace lo scat. Fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Pronto? Guarda, ma va trappi angole, guarda, a te grindri dici, tu eri clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanchè, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè. Una vergogna. Una vergogna. Una vergogna. Ciao, sono Francesco da Roma e prima di stringere la mano a una persona mi scaccolo per bene. I love my radio. Sono Matteo da Dublino e anche io piscio nelle bottiglie. I love my radio. Ciao, sono Luca dal Giambellino e anche io, come David, la preferisco depilatissima. I love my radio. Il signor Indro Montanegri. Devo dire che, pur essendo, come sapete, a spada tratta a favore di questa, in questa vicenda delle statue dei parchi di Montanelli, intitolati a Montanelli, dalla parte di chi dice che è una follia, anche il sindaco di Milano, per fortuna, ha detto di essere contrario a togliere la statua tutti. O il nome di Montanelli dal parco, da uno dei parchi di Milano. Tutti sono contrari. Devo dire che la frase di questo ascoltatore, Indro Montanegri, non è male. Il signor Indro Montanegri. Montanegri in questo caso sarebbe, ma sì. Non è male, dai. Cioè, una cosa ironica ci sta, dai. Giordano e Capezzone, sì, guarda, te li faccio sentire in batteria. No, ma scusami, Giordano, a proposito di Meluzzi, dimmi. Tu eri ospite con lui, no, ieri? Era collegato, signor Meluzzi, sì, e era collegato. E non gli hai ricordato che una delle sue ultime fake news che ha condiviso sul suo profilo è quella, non l'hai del vista? Nero, sì, del nero Floyd che è pagato dalla polizia. La bislacca teoria che vede nella falsa del morte di Floyd. Floyd attore, sì. Floyd esattamente, attore. Non gliel'hai detto? Il poliziotto falso attore. Falso attore. Non era non il tema. Che cosa dicevo? Io non faccio il conduttore di quella cazzo, allora, di trasmissione. Andrebbe, ma tu dovresti rifiutare di confrontarti ma con un personaggio mi devo, come io quello. Mi confronto con tutti, cioè, ma perché? Ma se uno dice che il poliziotto era una, in realtà un attore pagato per far scoppiare il casino e mettere in difficoltà Trump, tu dovresti, o dici, scusa del debito, perché non mandi un sottopancia dove metti ballista? Alessandro Meluzzi sottopancia ballista. Ma tu ti sei inimicato a vita Meluzzi. Perché non gliel'hai detto? Inimicato a vita Meluzzi. A me fanno incazzare quelli che diffondono notizie false. Ma quella è una teoria del cazzo, ma l'avrà condivisa, ma non lo so. Teoria, non so è se l'ha scritta teoria, lui o l'ha condivisa. Non è una teoria del cazzo, è chiaramente una follia. Lui è una follia. Vai sul. A me mi ha bloccato noi. Meluzzi. Come ti ha bloccato? Mi ha bloccato su Twitter. Noi. Siccome gli avevo fatto un paio di tweetini dei miei, mi ha bloccato. Lui mi ha bloccato, anche Capezzone mi ha bloccato l'altro ieri. Appello, questi due liberali da quattro soldi mi hanno bloccato, anche Capezzone mi ha bloccato su Twitter ieri. Chi se ne frega, non capite dai, perché? Frega, uno, Capezzone, liberami. Due, Capezzone, fammi parlare. Tre, Capezzone, non bloccarmi. Posso fare uno, due, tre anch'io? Uno, Capezzone, non mi bloccare. Due, Capezzone, perché mi hai bloccato. Tre, Capezzone, codardo. Posso? E io te li mando, come dire, a ruota, Giordano e Capezzone, senti. Fare un grande raduno anche con le menti brillanti, ci fossero anche Einstein, Archimede Pitagorico e Maga Magò, però farlo in quella villa, in quel contesto, così dà l'idea di una distanza dai problemi reali. Io gli Stati Generali, se avessi dovuto farli, l'avrei fatto in mezzo ai baristi. Però no, scusami, adesso Giordano, adesso se uno deve invitare, è sbagliato secondo me invitare a fare questi stati generali, che non servono un cazzo. Però tutto non è che se tu sposteremo tutto al papete, non ti preoccupare, caro. Se tu inviti questi signori, ma tu non da hai qualche il coraggio parte... di dirglielo. No, ma io glielo ho detto. Non è che li puoi invitare nella Stamberga sotto casa. Scusa, non Mario lo devi Giordano, fare. Ma non lo quando devi fai fare. La tua trasmissione, perché ad esempio non, fai, non ricostruisci la spiaggia del Papete, ad esempio? Quando fai le tue sceneggiate con tutti i tuoi giocattoli. Perché quando hai Salvini in studio non porti anche un secchiello e una paletta e non fai la spiaggia del Papete? Ma un anno fa è successo. Perché giochi con il monopattino e invece non giochi con le felpe di Salvini? Perché non ti metti anche tu una bella felpa con sopra scritto Mario Giordano? Così, Mario Giordano, pure Cologno Monzese, da dove trasmette lui? Cologno Monzese. Perché non fai una felpa geolocalizzata? Capezzone, come Capezzone, Salvini? No, Capezzone, Capezzone. No, vado via, torno via. Torno aspetta, via, Capezzone, no. Capezzone. No, no, no. La scena di ieri di Conte che si butta in mezzo alla folla pensando che gli tirassero petali di rose e invece gli dicono buffone, tira fuori i soldi. Dimostra che lui non ha capito quello che succede. Io sono un liberale sempre, non sono nei giorni pari. A me gli interventi distorsivi del mercato non piacciono. Capezzone. Sì, ma allora, nell'ordine, numero uno. Uno. Secondo. Terzo. Stefano da Genova, dai, Stefano da Genova. Stefano. Oh, sì, sì. Ecco. Dimmi. Allora, io mi faccio, sto facendomi una domanda. Sì, qual è la domanda? Perfetto, è questa qua. Perché questa trasmissione rovina il paese, io ci credo in questo. Rovina il paese. Sì, sì, sì. Questo è vero. Rovina antropologicamente, sì, sì, contribuisce. È così, amico mio, non è così. Contribuisce, sì, no, contribuisce questo a fare uno shift antropologico importante. Ecco, allora, dillo a Confindustria, fai un appello a Confindustria, ai napoletani, a, io mi chiedo, a non so a chi. Dà una rappresentazione falsa del paese, distorta, terribile. Il suo conduttore, no? Mi chiedo il suo conduttore. Lo fa per soldi o lo fa per un motivo ideologico? Perché mi diverto innanzitutto. Va, indubbiamente. Sì, però sinceramente se si è consapevole, allora è inconsapevole il conduttore, ma io non ci credo. Ma che consapevole della potenza della sua trasmissione. Ma di che cosa? Ma non c'è nessuna distruzione di nulla. Ma che del cosa? Il fatto che voi abbassate proprio il livello di coscienza, no? Perché le persone quando ascoltano, siete molto ascoltati, e io quando ascolto la trasmissione penso che in Italia la maggior parte delle persone siano siete rappresentativi, il campione vostro sia proprio rappresentativo, capito? Ma perché denigri così tanto le persone che intervengono e magari hanno idee diverse dalle tue? Perché secondo te una società civile è fatta anche di persone che parlano di scatte, di puttane, di troie, di dita che entrano nel culo, di squirting. Guarda, questa è la società vera, reale. Poi ci sono le van der Leyen, le Villa Panfili, le Ville. La ammorbidisce la potenza della trasmissione, effettivamente la riduce a un ruolo più di nicchia. Però a parte questo, ma io mi chiedo, ma Luciani, cioè una singola persona deve fare carriera e soldi a prezzo, a un costo che per il paese secondo me vale molto costo? Più di quello che guadagna lui. Ma e una persona lo fa così, oppure c'è un motivo ideologico preciso di disintegrare la mentalità di queste di contribuire alla demolizione? Ma contribuire cosa? Ma contribuire a che? Ma sei in linea con Parenzo che dice delle folline inaudite? No, Parenzo è un nano ideologico, cioè peggio di te almeno, cioè, Parenzo fa quello che buonasera, deve essere preso a calci, giustamente. Rappresenta quello buonasera, che poi in sostanza è la sinistra negli ultimi 15 anni, in effetti, che non esiste. Antonio dalla provincia di Brindisi. Buonasera e benvenuto, Antonio, grazie per aver chiamato. Di lei Brindisi. Credo che... Antonio provincia di Brindisi, dimmi. Sì, eccomi, saluti. Vai, vai. Va bene, allora io volevo parlare di una cosa importante. Sì, di che cosa? Sto 5G. Sì, sì. Come lo mettiamo? 5G. Io sono favorevolissimo al 5G, amico mio. Adesso vado contro quello che può pensare Parenzo. Io voglio 5G dappertutto, nel buco del culo lo voglio, chiaro? Vabbè, mettetemi il 5G nel buco del culo. Per me va bene. Più vicino è, meglio è. Più vicino ce l'ha, meglio è. Dunque lo voglio nel buco del culo, chiaro? Però a me non mi piace. Ma chi se ne frega se non ti piace? Te lo prendi e non rompi il cazzo. No, perché se te lo risbatto in faccia, no a te, a chi lo vuole imporre. E perché? Qual è il problema del 5G? Perché spiegami, che cosa porta il 5G? Chi lo sceglie è un conto, ma chi viene imposto e conosce che cosa sia il 5G, mi sembra che non sia una cosa rispettosa. E cos'è il 5G? Qual è il problema del 5G? Qual è adesso il suo problema col 5G? Qual è il suo problema col 5G? Il telefonino che lo fa? Usa, stermina, si manda messaggi. Stermina le persone. Che cosa fa il 5G? Distrugge i cervelli? Che cosa fa? Fa venire il cancro? Fa venire, favorisce il Covid, il come dice già, qualcuno, Antonio? È già distrutto, no, ma dimmelo, senza magari... 5G. No, ma il suo cervello è già distrutto senza il 5G. Quindi meglio posso avere il 5G. Parlare? Dimmi Antonio, dimmi. Da quali studi, da quale internet hai preso le notizie sul 5G che ti portano a dire che è pericoloso il 5G? Io lo voglio nel culo, chiaro? No, allora, in una democrazia è tutto giusto fino a quando tutta la popolazione sceglie Ma non è che un paese può dire no, no al 5G, ma scusa, che roba no, è? Cruciani, ma tu lo vuoi nel culo o te lo prendi nel culo? Io non lo voglio nel culo. Sì, ma tu no, scusa, stiamo parlando di democrazia, ma ce l'hai o lo di stesso, imposizione? Ma ce, lo stai, ce l'hai lo stesso nel culo, peggio, perché non avrai la velocità, non avrai la possibilità di connetterti. Non me ne frega niente. Ah, non te ne frega, vuoi vivere nelle caverne? Vuoi vivere nelle caverne? Dove cazzo vuoi vivere? Col no, mentre gli altri vanno più veloci, tu devi andare... con la natura, vuoi vivere, la natura è feroce, la natura è terribile, la natura è una merda, la natura no, è una merda, allora, non avete capito la ancora, la natura è bellissima da vedere, ma se non la domini, per darti l'ossigeno, sì, vabbè, è arrivato questo contro essere... 5G, ma no, non ho capito, no, torniamo calmo, al 5G, che cosa porta il 5G, spiegami, io non parlo di sauromanti che mi dai del rimbambito, e allora che cosa porta il 5G, spiegami quali danni allora porta il 5G, spiegamelo, no, ma spiegamelo sul serio, quali danni, io voglio andare più veloce, voglio connettermi meglio con Parenzo che non si connette, certo, voglio mandarlo a fare in culo più velocemente. No, capito? Voglio dire, Parenzo, vaffanculo perché non c'eri veloce alle 18:30. Lo voglio dire con più no velocità. Voglio che i collegamenti con Padova, i collegamenti con non so dove Parenzo, siano più veloci, non meno sì, veloci. Non è che funzioni che meglio. Voglio mandarlo a fare in culo più non velocemente. Invece, Parenzo, Antonio, se tu vuoi vivere nelle caverne, vivi no, nelle caverne. Se vuoi abbracciare un albero, abbraccia un albero. Ma non me ne frega un cazzo. Ma si possono fare entrambe le cose. Si può telefonare. Velocemente abbracciare un albero anche sì d'accordo telefono, però se lui preferisce le cuffiette, io ad esempio uso le cuffiette quelle che si mettono nell'orecchio senza filo sì, e contemporaneamente abbraccio un albero, questo si può fare sì d'accordo, però se Antonio è contro il 5G non capisco perché, che cosa porta Antonio, tu devi sapere la una cosa Antonio, è la prima cosa no, importante Antonio, della nostra vita, devi sbaglio sapere una cosa dimmi, Cruciani dimmi, devi dimmi sapere una cosa, Antonio è un coglione ma per una ragione molto semplice, vabbè, perché chiama in questa trasmissione, ma io almeno è molto semplice, è molto semplice il ragionamento, questo, allora, hai chiamato? No, no, no, tecnicamente no, sei un coglione. Parenzo, uno normale non chiama, te lo ripetico io. Uno dire, normale non chiamerebbe mai in una trasmissione perché come questa. Riproduco. Tu invece da testa di cazzo non fai niente. In che senso? Come riproduco? Mi fai riprodurre a me, però tu non produci niente perché ma quello sono riprodotto, ha fatto quattro quasi no, sono riprodotto quasi quattro volte. Quanti figli hai tu, scusami Antonio, quanti figli hai? Io? Tre. E quello ti sta fottendo, ti sta battendo, quasi quattro tra poco, poco quarto, quindi che vuoi Parenzo, quattro, quasi quattro. A te ti mettono in tasca. Ma che vuol non dire? Non ti permettere di dirmi dei miei figli. Ma chi le ha detto niente ai tuoi figli? No, nessuno. Ciao, Antonio, abbiamo detto ciao, se... ciao. Allora ragazzi, ieri sera a un certo punto Meluzzi ha tirato fuori un argomento fondamentale. Meluzzi. Aspetta. Ma ancora parlando Meluzzi, con ma Sara Manfuso, ha detto a Sara Manfuso ma non è che ti piace per caso, siccome lei ha detto a un certo punto beh, a me piace anche bardata, a me piace anche con lo scafandro essere baciata, e lui ha detto non è che sei un po' fetish. Allora io voglio chiedere a Sara Manfuso questa cosa, non è che veramente, siccome ha messo una foto su WhatsApp o altrove, non lo so, della sua faccia ricoperta da una di quelle maschere antigas che si usano molto nel mondo del BDSM, nel fetish, non vorrei che, cara Sara, non vorrei che. O no? Ma senti, ma io come sempre, guarda, quando aspetto di venire qui da te devo sentire delle versioni anomale dei fatti, perché non è andata così. Beh, è andata ecco, così, come no? È andata così. No, tu rimproveravi no, a lui, no, tu rimproveravi a lui di aver detto delle, ma intanto, delle cose scusami, contraddittorie. Ma, scusami, Sara, ma che parlava, scusa, ma, Sara, ma perché ti sì sei. Ti, solidarietà, intanto, perché ti sei, grazie, ti sei trovata grazie, in David, quella trasmissione che si chiama I Nuovi Mostri. I Nuovi Mostri, quella trasmissione. Io ma per sbaglio mi sono. Appunto, Covrano, soprattutto per quello ho girato e c'era la bella, cioè tu, e le bestie, la bella e le bestie dovevano chiamarla, erano delle bestie ma anche proprio ma un video, erano assatanati, ma Meluzzi una bestia, David, una cosa pazzesca, non... pazzesca. Ma non ho capito come lo consideri, perché... come lo consideri Meluzzi tu, Sara, scusami, ma non lo considero, ha utilizzato il termine adatto, David, no? Un nuovo mostro, un mostro. L'ho applicato unicamente a Meluzzi, con cui ho avuto questo scontro che effettivamente c'è stato. Non capito, ma ti piace Meluzzi, a te, ma ti piace davvero usare la maschera? Ma figurati, ma a me, guarda, cioè me, il BDSM non piace, a te il BDSM non piace. Non cerco le maschere, cerco persone, ecco. Dunque, mi magari ti piace il BDSM, che ne so. Ma no, a me personalmente no, però immagino che ci sia tutto un mondo che si muove appunto nel BDSM, no? Ma assolutamente, quando... c'è gente che cui piace essere, che ne so, frustati, oppure andare a essere completamente coperti in faccia, o utilizzare quelle maschere, certo, per giochi perversi, cioè, tu invece queste cose, a te queste cose non piacciono? No, no, no, io sono assolutamente, potrei scrivere, cioè sei tradizionale. Memoria di una puritana, addirittura. Senti, voglio chiederti una cosa. Lunedì riaprono i bordelli svizzeri agli italiani, il 15. Il primo luglio riapre invece un locale a me molto caro, che si chiama il Welcome. Ma insomma, in generale riaprono i bordelli anche in Austria. Ma non affezionato, no. Ogni tanto ho frequentato, anche se spesso come ospite, non come, come cliente. Tu come consideri quelli che vanno in questi clienti, in questi locali? Dimmi la verità. Come li consideri? Questi locali dove appunto si pratica la prostituzione. Ecco, allora? No, io penso questo, guarda, ti dico la verità, penso che siano degli uomini incapaci di procurarsi una donna, perché un uomo vero, uno in gamba, uno che veramente IEA fa, come si dice a Roma, perché sono a Roma, sai che cosa fa? Con una donna la incontra, ci prova, se si becca il due di picche non fa niente, avanti un'altra, ci proviamo con un'altra, ma non caccia i soldi per averla. Cioè, un miserabile, come lo consideri uno così? Un miserabile, un poveretto. Un incapace, un insicuro. È un uomo, no? Senza coglioni, per dirla con un linguaggio brutto, purtroppo, greve. Ma, Davide, ti dico un'espressione colorita, ma così. Dico, che si applica bene. Cioè, non ho capito, uno che prende la macchina, per esempio, prende la macchina e da Roma, da Milano, va a fare una serata in Austria, in un bordello al confine. Sara Manfuso, come lo considera? C'è uno così, che va là, paga una signorina, uno sfruttatore, guarda, di corpi. Te lo dico subito, lo considero un impotente sessualmente. Cioè, per me un uomo che fa così è l'esempio concreto della scarsa potenza sessuale. Perché un uomo che è potente sessualmente è un uomo che della donna non ha paura, non è che gli servono i soldi per andare. Ma che c'entra? Può essere anche una cosa, può essere anche un modo per divertirsi diverso dal fatto di rimorchiare una donna. No, cioè, le due cose possono andare insieme. No, cioè, io sono andato qualche volta in un uomo. Ma te, se un uomo, capisci bene che uno che fa così magari è uno che non ha alternative, probabilmente. Ma non è vero, uno che deve tirare fuori sfigato, i soldi, no? Magari non ha degli altri argomenti. Allora, abbiamo detto dire quali, ma ci siamo capiti. Cioè, tu dici, secondo te, sicuramente uno che ha non dico un micropene, ma è uno che non ha un pene particolarmente dotato. La potenza, ma Giuseppe, ma te, se no, io lo so. Impotente, poco dotato. Ci arrivi anche tu. Tu a queste cose non è una questione di centimetri, è la virilità. La virilità, c'è uno che non metro, che gli... si misura con tante altre cose. Gli tira uno cui tira poco, uno cui tira poco, diciamo, cioè uno che ha bisogno. No, uno che non ha una carica testosteronica. Ecco, una carica testosteronica. Aspetta. Per sollevare la zanzara. Ti stava ascoltando un signore che si chiama Karma, che io soprannomino il Karma quotidiano. Attenzione, fermi tutti. Karma quotidiano. Karma, ci sei? Che è un maniaco, un mezzo maniaco. Che c'è? Che ridi? No, ascoltavo la signora. La signora è accompagnata innanzitutto. Sì, accompagnata, fidanzata. Come si chiama la signora? Accompagnata. Sì. Sono con te. Le do del lei, anche se io ho un 50 anni, però le do del lei. Adesso le spiego. Sai una che cosa, forse cara, era signora. Meglio il confronto con Meluzzi. Fermi. Adesso spiego una cosa, cara signora. Sì. Non voglio fare lezioni a nessuno, per carità. Perché? Anche se io ho due diplomi nella vita, uno da puttaniere e uno da tecnico. Però adesso le spiego cosa. Cioè, tu sei un puttaniere. Spiega alla signora Manfuso che tu sei un puttaniere storico, insomma, un puttaniere. Sì, uno da puttaniere, uno da tecnico. Sì, uno da tecnico puttaniere. Sì. No, tecnico che non le posso dire di che cosa, però se no è il mio mestiere. Vabbè, professionalmente è il tuo mestiere. Professionalmente sono un tecnico. Sì. Adesso le spiego una cosa, cara signora, il discorso è questo. Allora, innanzitutto a me non mi mancano le donne, tra virgolette, normali, perché io abito su Roma e ne potrei avere a centinaia, addirittura. Perché a Milano invece non ci sono. Sì. No, un attimo, adesso l'ho ascoltata. Dunque, però, diciamo, non sei uno di quelli che va a puttane così perché ti mancano le donne. No, Giuseppe, tu mi conosci assolutamente. Vabbè, lasciamo stare. Sì. Adesso le spiego due passaggi fondamentali. Uno, io tutte le volte che sono andato con una tra virgolette normale, mi è costato di più. È una rottura di cugliuna dall'inizio alla fine. Ma perché lei non è al ristorante fino alla fine? Lei non è all'altezza di una donna normale. No, carissima. Vabbè, allora la seconda cosa che devi aspetta, fermi tutti. Allora, fermi. La seconda cosa che se io innanzitutto la maggior parte delle donne, se tu non hai una bella macchina e sei un po' caruccio, diciamo, esteticamente, non ti si caga nessuno, Giuseppe. Non ti si caga nessuno. Questa è una minchiata. Poi lei ha detto che gli uomini sono impotenti. Voglio vedere una signora, un bel muratore prestante a 1.000 euro al mese, un bel figo. Se la signora ci va, voi ci ma va io lei, non signora? Guardi, ma gli argomenti signora, non lei non conosce conta. Queste persone? Senta, che cosa conta? Aspetta un attimo, Carma, fai rispondere un attimo. Carma, sei Carmo, perché sei troppo nervoso, sei agitato, Carmo, ok? Allora, ascolta, io nella mia vita non ho mai fatto selezioni in base al conto in banca o diciamo alla bellezza dei miei partner, quindi questo Karma glielo posso dire questo con sicurezza. È un'accusa che viene respinta. Evidentemente, assolutamente sì, lei poi sta dichiarando di essere brutto, povero, e certo, quindi queste sono chiaramente le condizioni che non le consentono di avere donne, anche se lei poi alla fine dice di averne, ma io non le credo, io, perché secondo me le ribadisco, allora, signor Sarma, che a una donna la cosa che piace, un uomo che si apporre con eleganza, che sì, sa carissima, anche dialogante, che manifesta la sua virilità non soltanto col portafogli. Allora, l'altra cosa, aspetta, scusami, Sara, Carma ha detto pure che quelli che vanno puttane come te, puttanieri, diciamo, che vanno spesso alla welcome in Austria, eccetera, ha detto anche che sono dei poveretti, degli incapaci, insicuri e impotenti. C'è gente, insomma. Fermi tutti. No. Allora. Allora Giuseppe, tu conosci il direttore dove vado sempre? Vabbè, io mi faccio 4-5 camere senza problemi, devi dire alla signora, e mi sento un toro, senza problemi. Poi lei che se ne fa 4-5 in batteria? Allora, devo spiegare alla signora una cosa, quando io vado lì, non è che le piglio per i capelli e le porto in camera, le signorine già sono pronte, adagiate sui divanetti, ok? Poi io sono molto carino con loro. Che vuol dire? Ma che parla? Pensa a quelle povere signorine che sono costrette ad accompagnarsi con un mostro simile. Cioè, pensa anche a loro. Le signorine, la macchina più brutta che tengono davanti al parcheggio e Porsche Panamera. Comunque, Karma, ti posso dire una cosa? Di qualcosa, Karma. Oltre a mettere mano al portafogli, secondo me, metti mano anche al blister con le pilloline, perché se vai in 4-5 stanze ogni volta a 50 anni, attento che non ti prendi il coccolone. Secondo me ti prendi le pilloline per trombarne 4-5. Ci rimane secco. Karma, come rispondi a questa accusa gravissima? Allora, come rispondi? Carissima signora, io non ho mai preso una pasticca in vita mia. Adesso non voglio fare volgare, vediamo. No, facciamolo pure, fallo pure se vuoi. Allora vediamo, ma come no? Ma che problema c'è? Cioè, voglio dire, non è che ti devi confrontare. Voglio sentire. No, la signora Manfuso non vuole vedere niente. No, però posso dirti. No, io non faccio vedere niente. No, ma non sono un goatto, un gafone adesso, dico alla signora, centimetri. Non mi interessa. È un uomo elegantissimo, infatti. Ma sicuramente, la ringrazio, come gentile lei. Però un'altra cosa che mi dà fastidio, io 10 giorni fa sono andato con una ragazza a Roma, a parte che mi è costato 300 euro, spendevo di meno se andava escort, perché per 10 minuti 300 euro. Ma quindi una ragazza senza pagarla, non ho capito, 300 pagarla, euro per portarla a cena? Ma un attimo, portarla a cena, però prima di portarla a cena un regalino, dopo siamo andati a cena i fiori, già subito ho pagato il conto, quando già siamo usciti siamo andati in un centro commerciale, mi guardava le scarpe, i profumi, che cosa, che cazzo ti fa capire? Ti fa capire che comunque senza soldi, carissima la mia signora, le voglio bene, non si muove nulla. Ma che gente frequenta, scusi, soldi. Ma che gente frequenta, però c'è un problema. Donna, anche noi magari incontriamo degli uomini, karma, che anziché pensare a dialogare con noi pensano subito ad andare karma, a dialogare. Ma sai cos'è, Sara? Sai cos'è? Che questa qui, questa ragazza qui, ha detto questo è brutto in culo, è un cretino, almeno gli spillo via un po' di soldi, perché è talmente uno scemo e un cretino che a cena karma, mi faccio due palle così, pare, ma almeno karma, mangio. Karma. Che panda, che sei un gesto, ma ancora parli, ancora e quindi parli. Ti hanno ti ha spillato un po' di soldi perché ha capito che sei un cretino. Parenzo, tecnicamente sì, un biduni, lo sai che vuol dire? Sì, tu sì, sei un biduni, sei un gato, ucato in Sicilia, lo sai che è un secchio, tu sì, sei un secchio, sì, tu sei un secchio senza acqua. Babbo sei, sei un babbo. Comunque, comunque karma, il primo... Aspetta un attimo. Uomo così, guarda. Il primo luglio, diglielo alla signora Manfuso, il primo luglio sarai allora, lì davanti ai cancelli, dimmi. No, è il primo weekend, già so, no, ma io già sono tutto pronto, non aspetto altro, il problema è questo. Io già sono pronto, carissima la mia signora, karma, vado lì. Stai attento alla salute, le pillole ti fanno male. No, mi fa bene, no, ma ti fanno male. Signora, le pillole, adesso arriva il caldo. Le pillole fanno male. Possiamo ricordare anche per chi vota il nostro signore. Medicinali, non fumo, non bevo, non ho nessun. Ma ti piace lo sticchio? Ma ti piace lo sticchio? Mi piace la figa, mi piace, che ci posso fare? Fermi tutti, grazie. Ma questo non è fermi tutti, grazie. Due mondi che non si incontreranno mai, grazie. La zanzara. Conte, dimettiti! Conte, dimettiti! Dica, dica, dica, parli, parli, dica. Ciao Crux, qui Pietro Longo. Amico mio, finalmente è finita. Basta con improvvisate loft qui in queste lande deserte. Finalmente dal primo luglio riaprono i bordelli in Austria. Che meraviglia, finalmente. Voglio vedere capannelli di macchine. Potrei persino ubriacarmi per la prima volta in vita mia, perché io sono praticamente astemio. Potrei persino ubriacarmi. Basta, era ora, fine. 4 mesi tristissimi. 4 mesi di dura lotta. Dura lotta con l'inquilino del piano di sotto, diciamo, ecco. E finalmente... è finita, basta, è finita, signori. Si ritorna alle vecchie abitudini, si ritorna alla figa. E per l'angolo salute e benessere, leccare la figa fa bene sia a lei perché c'è un orgasmo bellissimo, sia a lui perché i succhi della vagina, i succhi della patata sono ricchi di sali minerali, nutrienti, probiotici e calcio per i denti. No, io faccio altre cose, io cago addosso ai clienti. Ma dove le senti queste cose te, Davide? In quale trasmissione le senti? In quale trasmissione le vuoi sentire queste cose? Sai che ogni volta che le sento mi vengono i brividi. Io ogni volta che sento queste mi vengono io i brividi. Io te le metto quasi apposta. Intanto fare sesso alza le difese e aiuta a combattere i virus. Il sito prevention.com, ovviamente sono tutte cazzate ragazzi, non dovete credere a nulla di quello che leggete, a niente, anche quello che diciamo noi, nulla, niente, mai. Raccoglie le ricerche scientifiche sul tema. Una vita sessuale regolare non solo aumenta l'autostima e combatte lo stress, ma previene anche alcune malattie, ragazzi. Basta con queste cazzate. Perché i siti pubblicano tutte queste minchiate su cui poi noi facciamo, facciamo le puntate? Dovrebbero impedirci di farci le puntate, di impedirci di fare la radio, perché ci suggeriscono questi argomenti di continuo. Dovrebbero chiudere questo tipo di sondaggi, cose, eccetera. Così il 50% delle trasmissioni radiofoniche sparirebbero, perché sono tutte basate su questi studi, eccetera, eccetera. Sparirebbero, sparirebbero. Giuseppe, Dimmi. Senti, dimmi, che c'è, si dimmi. Pensava qua in regia di fare gli stati generali della Zanzara. Ottimo, meglio, sì, molto esatto. Meglio degli stati, sì, generali di Conte. Allora, sì, ottimo. Una sfilza di nomi, così, Davide, per divertirsi. Sì, ma gli stati generali, senti, in che senso? Spiegami, gli stati generali, ma, che, sì, vuol dire? Il punto, il punto della, sì, situazione? No, per ricostruire l'Italia che verrà condonato da Varese, con Susanna, che sa benissimo come funziona la strada, con Efe Ball, sì, sì. Meluzzi, Feltri, Paco da Belluno, Vincenzo De Luca. Io scappo in Congo. Io prendo l'aereo e vado in Congo. Subito. Carlo Freccero, però. Demone Scimmia, Conte Dolfin. Io farei un'altra cosa invece. Gli stati generali per decidere che cazzo dobbiamo fare nel futuro. Cioè, esatto, se andare in onda a settembre, non andare in onda, andare a fare in culo. Comunque, cioè, chiudere, dobbiamo chiedere a Pina Pitone. Sicuramente. Gli stati generali della Zanzara. Tutto. Intanto, tutto. Lores da Vicenza l'altro giorno è intervenuta nella trasmissione di Nicoletti, che gli ha buttato. Ha inquinato Giletti. Nicoletti, ha buttato giù il telefono. Bravo, Nicoletti. Bravissimo. Abbiamo gli audio? Bravissimo. Lores, provincia di Vicenza. Prima persona che giudica. Buongiorno. Ma proprio lei sta descrivendo quel film. Io non ho mai visto, cioè l'ho visto 100 volte. Non ho mai visto quello che tu, cioè, lei sta descrivendo. Cosa? Vuole no? Il figa di legnismo di Rossello Ara, palese. Vuole sapere quello che sta descrivendo lei? Lo vuole, sì, che glielo dica? È, certo, quello che sta succedendo in Italia con i comunisti. Importano schiavi negri per fare i lavori più bastardi. Gli stipendi per gli... No, lasci parlare a me, per cortesia. Ma non c'entro, ma scusi, no, non la faccio parlare. Scusi, no, sta esprimendo il suo pensiero, che io rispetto, ma è un'altra trasmissione. Ma stiamo parlando, no, di Via col Vento. No, è lei che sta descrivendo un altro film. Io la mamma l'adoravo, non ho mai visto io il disprezzo. Ma lavorava gratis, era una schiava, mamma, signora, era una schiava, lavorava gratis. Per cosa lavorano i negri qua in Italia adesso? Me lo dica lei. Vabbè, senta, non ha diritto di parlare, dice lei cazzate. Lores, arrivederci. Ma è impazzito Nicoletti, ha buttato giù a Lores. Questo dovrebbe essere la norma. Lei non ha diritto di parlare. Applausi a scena aperta. Ma perché? Perché ha detto che in Italia... Ma cosa? Bravissimo. Ma cosa vuol quando dire? Uno dice una sciocchezza, con la corte, lei che è comunista, non ha diritto di parlare. Questo bisognerebbe dire. Questo un conduttore radiofonico dovrebbe fare. Non titillarli, accarezzargli il pelo, dargli da mangiare, nutrirli. Perché poi Jurassic Park si ribellano, i mostri poi si ribellano a un certo punto. Tu hai nutrito questi cani di allevamento, questi mostri di allevamento, li hai nutriti, gli hai dato da mangiare, gli hai dato visibilità, li hai fatti crescere. Lores, ma Lores è un genio, è un genio, un genio della comunicazione, un genio assoluto. E quello butta giù il telefono, ma è pazzo Nicoletti, butta giù il telefono. Perché butta giù il telefono? Che vuole intellettuali? Cioè, che vuole intellettuali? Cosa vuole? Certo. Intellettuali? No, intellettuali? Gente normale. È la gente del popolo normale. Che chiama e stava ma criticando. Quella non è normale, quella è una poveretta, è una scriteriata, è una mezza matta, è una rincoglionita. Elena da Milano, dai, Elena da Milano. Dai. Ciao, Crucio, Croce Delizia. Dimmi, un abbraccio a David. Un abbraccio. Allora, prego, tu signora, prima hai parlato di Moana e non mi stupisce di quello cosa? Che hai detto. Perché nella Signora delle Camelie, La cura traviata, Armando dice di Margherita, dice c'era in quella donna una specie di candore, si intuiva in lei una verginità nel vizio. Mm. Ecco, io questo lo posso dire di Moana. Ma che c'entra adesso Moana? No, non c'entra proprio niente, ti volevo dire un'altra cosa di ieri. Mio compagno da 10 anni è un fanatico innamorato di te. Sì. Ieri io vado a letto presto. Sì. E lui mi dice... Mi metto in croce, devi vedere Cruciani, lo devi vedere. No. Vabbè, allora io mi sintonizzo, siccome tu tardavi, mi sintonizzo su Rai 2 e vedo... Non è Rai 2, è Rete 4. Sì, cioè. No, prima... Prima Rai 2, prima Rai 2, sì. Prima Rai 2, dopo le parole poi di... Di chi? Di Gino Strada su sua moglie, sul concetto di morte che noi ci Gino teniamo. Strada, sì. Non parliamo di quello che è successo. Sì, però adesso non possiamo stare tre ore. Cerchiamo di. Facciamo finta di. Vabbè, cambio, vedo te. Vedo tre vecchiette che saltellano ottimo, sì. E battono le mani. Pezzo al straordinario di grande trash. E tu che dici? Ma l'avete fatto apposta? pezzo straordinario di grande trash, stupendo, meraviglioso, col DJ circondato da tre vecchietti. Brandivi cosa? La tua mano inanellata a mo' di sciabola. Tutti i personaggi dell'orrore, un teatro dell'orrore, ma tu perché ti presti tutto questo? Ma che vuol dire? Ma perché questa è la vita, è la vita. Ma tu anche il resto è così, ma anche il resto è così. Tu molto bene, Davide, si percepisce. Io non capisco perché devi cadere. Ma cosa? Tu dici la vita puzza, io la puzza la sentivo da reti ieri, la sentivo da morire. Ma certo, la realtà puzza, non profuma. Questo è il mio motto: la realtà puzza, non profuma, puzza. Non è vero, ma se tu guardavi Rai 2 quel documentario. Ma quale documentario? Ma non c'è, non fa ascolto. Parenzo, Freccero, glielo dico a lei, non fa ascolto il documentario. Documentario, no, no, andava tutto bene fino a prima, ma il documentario no, dai. Distrugge tutto, distrugge. Oh, il buonismo è quello che cura le guerre, dai. Lui va lì e con la tendina, sono tutti uguali, l'afgano con l'americano, dai. Non funziona. È meglio trash. Non ha mai naturalmente fatto entrare una telecamera in una delle sue tende, in una delle sue sale operatorie. Mai è entrata una telecamera per vedere la morte, naturalmente. Per vedere la morte. Invece lui la racconta solo. Tu la morte la devi vedere. E noi facciamo altro che rimuoverla. Aspetta. Non ho capito che dovrebbe far vedere Gino Strada nei suoi ospedali. Non ho capito, la morte in diretta. Naturalmente, mentre opera una persona disperata che arriva, dovrebbe bloccare tutto e dire: ora decide il pubblico da casa. Dall'Afghanistan si collega un grande satellite e il pubblico da casa naturalmente ha pochi minuti, perché c'è la vita e la morte, la vita e la morte, la vita e la morte. Decide: lo salviamo il talebano oppure lo condanniamo a morte? E il pubblico decide. Democrazia diretta, questo è il titolo, naturalmente. Democrazia diretta, diretta. Il titolo, popolo sovrano. Abbiamo già fatto una trasmissione popolo sovrano, sì, esatto, sfortunata, sì. Naturalmente ora ne faremo un'altra. Democrazia che si chiama Democrazia diretta, naturalmente. La realtà dentro, sì, la tenda, in mezzo alla guerra. Questo è televisione, il resto è fiction. Ma come si fa? Roba da Montalbano, dai. Ma come si fa a mettere come la telecamera si fa? Mentre uno opera? Ah, bastano due telecamere, naturalmente non occorre due telecamere, naturalmente, per fare i piani d'ascolto della sofferenza, naturalmente il piano d'ascolto una sul medico, naturalmente, e una sul moribondo, sul malato, chiamatelo come vale. E poi una telecamera esterna che naturalmente riprende la scena dall'altro, mentre tutto intorno ci sono dei bombardamenti, molto pericoloso naturalmente, ma molto reale. La Zanzara. Ma non sono solo, sono con le mie ziette di quasi 90 anni che sono delle tue grandi fan e che vogliono salutarti. Ecco qua, te le presento, sono qui da me. Grazie. Ma allora le porto tutte a ballare, che ormai che non è il mio target, insomma. Ma questo è un momento altissimo. Sono tre? Beh, questo è un momento eccezionale. Allora porto anche Cruciani e Belpietro, facciamo una bella festa danzante. Ma che bella compagnia. Ma la cosa è imbarazzante. A un certo punto è arrivata la sosia di Liz Taylor. No, vabbè, ma anche perché alla fine c'è uno che, come vuoi dire, è uno alla fine un signore come noi, un signore molto molto borghese, è proprio del Bibbio. C'è il Bibbio, siccome non è mai entrato in un'osteria davvero come quelle, non è mai andato a fare il ballo liscio alle feste dell'unità, mai. Io sì, invece. Io mi chiamo Marina Castelnuovo di Varese, sì. E allora? Di professione sono un'attrice, una conduttrice da 30 anni, gravito nello spettacolo in qualità di socio ufficiale di Liz Taylor. Oh, frattempo ho aperto questo bed and breakfast che a Varese, sempre nella casa dove io abito da anni, sì, allora? Per arrotondare e per poter tirare avanti, perché mantenere ville come le case come le nostre è difficilissimo. Okay. Le ville, questa c'è una villa, io c'ho tutto, gli ho detto, siccome non gli arrivano i soldi dal governo, venditi la villa, gli ho detto, venditi la villa. Comunque non abbiamo ricevuto nessun aiuto, okay, Paolo, dal questo è chiarissimo. Neanche gli miseri 600 euro. Benissimo, ecco, avanti. Questo è quanto. Morani voleva intervenire, no, da a me non va molto di scherzare. Rispondi. Sì, stavo dicendo che a me non va molto di scherzare sul virus, su se esista o meno, perché il virus purtroppo esiste e ha fatto decine di migliaia di morti. Ma mi risponda per favore, sotto stare. Vada. Perché stare non ci date un aiuto? Faccia finire, faccia finire. Ma scusa, signora Marina. Ma scusami, spiegami un secondo la dinamica. C'è l'onorevole Morani, sottosegretario, viceministro, all'economia, viceministro, so, è costretta a confrontarsi con la sosia di Liz Taylor. Cioè, ho capito, fammi capire, fammi capire. No, ma senta, è ma io dico, ma in che mondo lei è costretta a confrontarsi con una che non riceve Morani, un finanziamento con essendo la sosia proprietà di Liz Taylor, sì. Una che si traveste da Liz Taylor. Amico, ragazzi, io chiamerei una persona. Chiamerei una persona che scrive: le donne più o meno, le donne sono cagne, i gay sono dei pedofili, i neri sono delle scimmie. Ovviamente non dice proprio così, costruisce delle frasi che hanno questo significato. Un signore che, se non sbaglio, si chiama Ceccaroni, com'è che si chiama Ceccaroni, è stato anche candidato a Roma anni fa, eccetera eccetera, Giovanni Ceccaroni, e ha delle posizioni, dice anche grande Trump, rimetti le scimmie nelle gabbie, libera l'America dal caos, dice io sono leghista, ammiro Salvini eccetera eccetera, odio i liberal, pensa che Soros sia un porco, un tipetto così, insomma. Chiamerei caro Parenzo, preparati se è necessario. Pronto? Sì, c'è Caroni? Sì. Sì, buonasera, mi chiamo Cruciani, come va? Tutto bene, chi è? Cruciani da Radio 24. Scusi, non seguo Montana. Che le serve? Come stai, innanzitutto? Bene. No, voglio dire, ci sono alcune cose che volevo verificare con te, alcune cose che avresti scritto, che hai scritto. Oddio, sì, ho capito, perché mi sono stato vittima, diciamo, di una shitstorm. Shitstorm, sei tu che hai scritto è bello essere fascista, innanzitutto. Cioè, quella era una cosa ironica, c'era anche una faccina che hanno tagliato nel... Ma ho capito, l'avevo detta a una persona che è antifascista, ma era una roba per... No, ma ho capito, ma se uno scrive è bello essere fascista, significa che un po' fascista è. Ah, fascista, nel senso, io non c'ero quando c'era Mussolini, quindi non posso dire di essere fascista. Sicuramente non sono posto fascista, non ho fatto parte di nessuna organizzazione del 68, quindi non mi sono ammazzato, mai menato con nessuno per questioni di fascismo o non fascismo. Quindi ho le mie idee, che mi piaceva lo stato sociale dell'epoca, quelle robe lì, ma insomma. Ah, quindi un po' fascista, cioè, lei. Più che altro per lo stato sociale unito a quello che per me era unito. Un nazionalismo. Sì, però scusami un attimo, tu a un certo punto... Scusami un attimo. Essere un fan delle guerre o degli stermini, insomma. No, però scusami, cercano. Tu hai scritto anche recentemente: sono scimmie che dovrebbero stare solo in Africa. A proposito dei neri. Ma io sono stato tempestato da immagini dagli Stati Uniti di questi che saccheggiano negozi, sfondano cose, si ammazzano di botte tra di loro. Ho capito, ma hai scritto che sono scimmie che dovrebbero stare solo in Africa. È un po' diverso da criticare. Ma che è un comportamento civile quello? Ma che c'entra la gente che saccheggia? È normale dare della scimmia a una persona? Scusi, partiamo dalle basi. No, è normale dare della scimmia? No, no, ha detto sono cose. Si comporta come un coglione, invece. Sotto c'era il video di quelli in America che stanno a fare quel casino. Si sono comportati bene, avete ho visto? Capito, ma tu ti riferivi alle persone di colore, scimmie. Ho capito, ma sono loro che fanno quei casini, cazzo. Cioè, ma che vuol dire? Ma definirli scimmie che dovrebbero stare solo in Africa è una cosa è razzista. Tu sei orgogliosamente... Ma non è una questione di razzismo, perché ci stanno pure africani normali che si comportano come Cristo comanda, sto a Roma. Ma per te sono inferiori o no? Per te sono un po' inferiori o no? Perché alla fine... Quelli in America si comportano da coglioni, da animali. Quelli d'America si comportano da animali. Non è che a parte ho capito, ho capito, ma quelli sono criminali. Che c'entra con le scimmie? Ma quelli sono criminali, non scimmie. Criminali allora, e basta. Ma che criminali? Ma tu hai mai visto una rivolta del genere da parte di romani di Roma? Ma voglia, te gente che sfascia i negozi. Io sfascio le cose, pieno di bianchi che sfasciano negozi. Che sai che è una prerogativa dei neri sfasciare i negozi? Ma io non ne ho. Allora io ti giuro, mi fai vedere i video pieni di questi qua, italiani, francesi, tedeschi, nordamericani. Niente, nessuno, solo i neri. Io sono d'accordo con te. Perché i neri che c'hanno una caratteristica particolare? Ma no, il problema perché in America perché sono vengono bestie, tenuti, perché sono no, bestie. Perché in America vengono tenuti come animali, perché, non gli danno possibilità di istruzione di niente, li lasciano una povertà e quelli poi si comportano, ma scusa, come ma animali. Ma perché tu accosti per esempio i gay alla pedofilia? Spiegami, perché accosti i gay alla pedofilia? Spesso perché è... io mi riferisco, allora, in parte, allora, premesso il fatto che li chiami, tu, li chiami tu li chiami culattoni, allora, Froci, so. Rivendica questa cosa qua, li chiami culattoni, Froci, rivendica questa cosa tranquillamente. Allora, è modello, mi fai parlare, lo dico. Dimmi, dimmi. Allora, il problema non è il gay cosa gli piace fare, perché se a te ti piace fare le cose tue, nelle, non me frega niente, che io non sono un bigotto di quelli che per forza, non me ne frega niente. Cioè, a te non piace prendere nel culo, mi sembra. Mi sessuale, puoi fare quello che ti pare, quindi io non è che... E allora qual è il problema? No, perché il problema è quando la butti in politica, cioè... In che senso? Tu scusa. Non in quanto gay che ti piace un uomo o ti piace il coso, in quanto gay che vai in politica hai un peso pazzesco. Specifico sempre maggiore grazie all'Unione Europea. Che c'entra l'Unione Europea con i gay? Politica, ma che c'entra l'Unione Europea con i gay? Pintano gli uteri. Poi io mi vado a vedere quelli del Partito Comunista che mo sono diventati tutti liberali. Che sono interviste di esponenti di spicco che cioè, loro chiedevano lo slogamento della pedofilia, diritto per ma i bambini di amarsi con gli adulti. Ma chi lo dice? Ma chi è che vuole sdoganare? L'articolo di Repubblica dell'89. Ma chi la vuole sdoganare la pedofilia nel mondo? Ma che vuoi da me? Vattene a chiedere a chi ha fatto quell'intervista, ma che vuoi ma da me? Ma tu stai accostando la lobby gay a una lobby che vuole sdoganare... Ma allora, quando loro accostano la Chiesa Cattolica ai preti alla pedofilia? Ma che c'entra? Questo è un altro discorso, perché ci sono dei casi... Ma vedete se i preti sono eterosessuali. Perché secondo te un po'... Ma i preti omosessuali ci sono... Allora, lì i preti sono tutti gay, nessuno dice niente. Scusami, questi vogliono sdoganare con le loro lobby, signor con Ceccaroni, le loro secondo, perché secondo te vogliono sdoganare vogliono sdoganare la pedofilia. Ma chi lo dice che vogliono sdoganare la pedofilia? Ci sono anche alcune associazioni americane che lo dicono proprio apertamente. Cioè, secondo te, scusa, un gay... Cioè, secondo te, un omosessuale può essere anche pedofilo? C'è più possibilità che sia pedofilo, ma un omosessuale? Allora, no, pedofilo, io non intendo per pedofilo che vanno con i bambini dei 3 anni. Pedofilia è quello, io però, se già tu cominci a insidare un ragazzino, 12, 13, 14 anni... A che fare? Cosa dice? Cosa? Ma chi è che li incita? Chi è che incita i bambini di 12-13 anni a fare cose? Ma chi? Perché secondo te questi si accorgono a 30 anni che sono gay? E allora che vuol dire? Che i gay adulti incitano? Infatti, insegnano... Se tu vedi quella persona là si lamentava 30 anni fa del ma fatto lascia perdere 30 anni fa, partiamo... Ma andiamo adesso. Adesso quello, e quelli sono, perché cioè, sono quelli che fanno politica oggi. Cioè, secondo te, oggi i gay di oggi, delle associazioni gay, incitano alla pedofilia? Ma non lo dicono apertamente, però è così. Però io è non così. Ti dico che le associazioni incitano alla pedofilia. Ma non è che lo inneggiano, ma sì. Ma ci ma sono devi, ma, di ma, so, ma di quello che pensi, non avere paura. Ha fatto un'intervista e si è messo pure a piangere perché dice non posso perché non posso amare un ragazzino. Ma perché li chiami culattoni? Non ho capito, perché li chiami culattoni? Cioè ti piacciono questi termini qua, culattoni, Froci, vabbè, ma sui termini. Beh, logicamente nel momento in cui quelli ci abbiamo a insultarsi, loro provocano a me e io provoco loro. Poi hai detto anche quel porco di Soros, una volta quel porco di Soros, hai detto pure. Il porco di Soros. Beh, perché che non finanzia la radio? No, la radio qua. Come, quale radio? Ma magari, finanziasse la radio, ma magari. La radio di Confindustria. La fondazione finanzia mezza Italia qua. Ma magari finanziasse la radio, magari. Pure la radio. Meglio di no, mettete meglio. I bilanci ma come no? Sul sito, magari. Ma quale Soros? Mica sono soldi sporchi quelli, sono soldi puliti. Quel porco di Soros, dai. Soros potrebbe esistere, quello che è andato da Gentiloni a batte i pugni perché doveva fare la legge subito sui vaccini. Pure i vaccini. Soros non fa vaccini. E i neri sono scimmie che dovrebbero stare in Africa. Quelli che fanno violenza, devastano e sfasciano tutto come hanno fatto. Devono andare in galera, non in Africa. In galera, non in Africa. Nelle gabbie, mettili dove pare. Nelle gabbie, roba incredibile. Ma pare che nessuno ha fatto niente lì. Portiamoli tutti in Africa. Ma portiamoli tutti in Africa come Ku Klux Klan. Ma dai. Comunque, Ceccaroni mi sembra un esponente del Ku Klux Klan italiano. Stupendo. Dovresti fondare il Ku Klux Klan italiano. Mamma dovresti fondare. Mia, esagerato. Il Ku Klux Klan. Non hai il coraggio, però dovresti andare incappucciato a fondare il Ku Klux Klan contro i culattoni, contro i culattoni, i gay pedofili, le scimmie, Soros, il cappuccio. Ci sono dei gay che con rilevanza politica che facevano dei discorsi come volerla sdoganare la pedofilia. Ma quando mai? Ma che cazzo c'entra che la pedofilia è più? Vado a vedere gli articoli su Google, vado a vedere i video di altri personaggi. Ciao Ku Klux Klan. Bella per te. Ciao capo del Ku Klux Klan italiano. Ciao. Bella per te. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ho avuto una visione. Valentina Nappi per il sociale. Fa un pompino con soffo cotto, un cazzone nero e grida I can't breathe. Bellissimo, fa ascolti. No, ma io non voglio che mi trivellino. Io voglio soltanto fare i pompini che mi piace. Cioè, il resto... Cioè, mi piace, però non sono le persone giuste. Io ho già capito che non sono le persone giuste, lo capisco a priori. Però mi voglio divertire un po' e così vediamo. Sono curiosa di vedere il cazzo che hanno. Non fare così, ad questo punto dico mi fare una sega e sto a casa. Anche perché Lara è famosa sul web come... Lara l'amante perfetta. Ovviamente c'è dei servizi particolari, che sarebbe la pioggia dorata. Che fai pipì addosso a lui? Sì, c'è la cioccolata calda. Cos'è la cioccolata calda? Oddio! Io ma non ti vergogni? No, è il mio lavoro. Davide, cazzo, dai, su, con sta connessione del cazzo. La qualità dell'audio mamma è pessima. Mamma mia, ragazzi, che cazzo avrà fatto? Perché è successo qualcosa negli ultimi minuti? Avrà staccato, riattaccato, fatto qualche minchiata? È collegato? È collegato o sì, no? Certo, ma certo un cazzo, come direbbe... Vedi perché ci vuole il 5G? Ah, vai, vedi perché ci vuole il 5G? Dica, parli, ecco, dica. Perché c'è bisogno di stare in studio, di non stare sempre a fare in culo da qualche parte, di questo c'è bisogno. La tecnologia, dai, che ti permette di fare smart working ovunque, su, sì, la modernità, lo studio, roba vecchia, lo studio, roba ottocentesca dell'inizio del Novecento, dai, come la fabbrica, dai, Marto. Tu sai che cos'è la cioccolata calda? No, l'ho sentito, ma mi fa schifo, sì, ho capito cos'è, mi fa schifo. Cioccolata ma calda. Dove è andata in onda sta porcheria? Dove è andata in onda sta porcheria? Le iene. Non ho altre domande, vostro onore. Perché? Capito? È la fotografia dell'Italia, perché c'è se c'è gente che ama la cioccolata calda, c'è gente che ama la cioccolata calda. Senti, la devi smettere di dire che questa qui è la fotografia dell'Italia. Uno che si fa cagare addosso non è la fotografia dell'Italia, va bene? Hai capito? Allora o no? Cioè, smetterla di vendere questa cosa e quindi anche le iene bestiali, perché dire questa è l'Italia è una rappresentazione che cosa? Incredibile. Perché? Non ho capito perché. Cioè, se uno si fa cagare addosso, qual è il problema? Non ho capito. Se uno paga e l'altra fa, ma qual è il problema? Ma cosa vuoi dire qual è il problema? Cosa dici qual è il problema? Qual è il problema? Sì. Qual è il problema? Spiegati. Qual è il problema? Qual è il problema? Non ho capito. Se uno ama queste cose, ama queste cose, no? Non c'è... Ragazzi, ma è incredibile. Risulto strano io? Ma allora, strano però io voglio adesso che il Premier Conte, e inviti agli stati generali una persona, ti giuro, dovrebbe invitare, invece di fare quella passerella con tante persone inutili. Se vuole sentire qualcosa da Landini lo chiama in privato, non c'è bisogno di andare agli stati generali. Se c'è bisogno di sentire qualcosa dal capo della Commissione Europea si sentono per telefono, non c'è bisogno di fare la passerella agli stati generali, giusto David? Mi sembra che non è una follia quella che... vabbè, vai a fare in culo allora, fallo riconnettere, cazzo, no, dai. Porca puttana, ma che roba è? Ma non è possibile, dai. Dovrebbe invitare invece una signora che si chiama Gaia Lorenzi, fa la prostituta da un po' di anni, è ricercatrice, addirittura ha fatto dei lavori nelle biotecnologie, giusto Gaia, o sbaglio? No, esatto, benissimo, buonasera innanzitutto. Buonasera. Parenzo, vuoi salutare questa signora? Buonasera signora. Da un po' di tempo fa la escort, da quanti anni fai la escort Gaia? Da una decina d'anni ormai. Perché hai preferito fare questa, diciamo, intraprendere questa strada piuttosto che restare nel mondo delle biotecnologie? Spiegalo a Parenzo che è un bigotto, per favore. Non bene bigotto, mi dispiace però. Perché dal punto di vista lavorativo non ero sufficientemente remunerata, perché non c'erano possibilità di sbocco, perché era tutto un ambiente viziato. Io reputo che per le capacità che avevo e tutto, meritavo una vita migliore, una vita un pochino più agiata, visto che ho studiato tanto. Per questo, visto che il sistema in cui io credevo non mi ha soddisfatto, io ho cercato in altro modo la soddisfazione economica e il mio benessere. Benissimo, dunque, benessere economico, ma anche ovviamente una passione, perché non è che da 10 anni uno... cioè, avevi già una passione per il sesso, cioè andare con degli sconosciuti, con degli estranei, non ti fa schifo evidentemente? No, assolutamente no. Ma questo già da prima, diciamo, o no? Diciamo che per mia vocazione non sono mai stata molto proviscua, però comunque il sesso lo vedo come un'arte, come una cosa bella. Quindi se di questo sesso ne posso fare un mestiere, perché no, non mi pongo dei limiti, soprattutto quando questa cosa è fatta volontariamente. Certo, assolutamente, cioè, figuriamoci. Senti, posso dirti una cosa? Dunque, secondo me tu dovresti andare lì come consulente del governo Conte, non una grande idea questa cosa qua. No! Oh mio Dio, così tanta consulente roba. Per quale settore? Cioè, secondo me, invece di invitare tante persone, dovrebbero invitare una come Gaia, che appunto era una ricercatrice, ha lavorato nel mondo delle biotecnologie e poi si è trovata a fare la prostituta. Cioè, dovrebbero la prostituzione. La mia fonte di sostentamento. Esatto. Una delegazione di puttane, chiamiamole così, ma io lo uso in senso positivo. No, non mi offendo. Esatto. Una delegazione di puttane, secondo te, non sarebbe utile agli Stati Generali? No, in alcun modo. Lo chiedo a Gaia. Una delegazione di prostitute non sarebbe utile? Non aggiunge niente, in alcun modo. Cosa vorrebbero sapere da una prostituta agli Stati Generali? Che ne so, potrebbero sapere, cioè potrebbero avere il quadro della situazione di questa professione, cosa può portare la regolarizzazione, cosa può portare... Certo è che se vogliono regolarizzare farebbero una cosa bellissima e farebbero la mia felicità, ma sotto tanti punti di vista. Se vogliono regolarizzare, certo, non devono... sentire il parere soltanto del medico che fa prevenzione piuttosto di chi fa prevenzione dal punto di vista legale, dovrebbero sentire anche quello che abbiamo da dire noi che siamo diciamo quelle coinvolte in prima persona. Oh, dunque sei d'accordo che una delegazione di prostitute sarebbe utile? Ma tutti i problemi che ci sono, cosa c'entra la delegazione di prostitute adesso? O comunque sia dovrebbe essere interpellata colei o coloro che fanno questo mestiere, perché tutti quanti pensano che questo mestiere sia molto semplice, sia molto facile. No, non è così. Purtroppo serve molta organizzazione, serve molta fatica. E quando c'è qualche ragazza che mi contatta e mi chiede se vuole fare questo lavoro, io gli dico sì, pronta dal punto di vista psicologico, perché questo è un lavoro che debilita dal punto di vista psicologico tantissimo. Ma tanto. In che senso debilita dal punto di vista psicologico? Debilita dal punto di vista psicologico perché spesso ci si ritrova con persone problematiche che loro stesse hanno problemi psicologici. Cioè i clienti, dici? I clienti, certo, che a me piace chiamare amici speciali. Chiamiamoli clienti per non avere problemi. Con questo lockdown i problemi psicologici o comunque sia le mancanze di queste persone si sono elevate all'ennesima potenza. Né più e nemmeno come è successo quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, perché io ho subito e mi ricordo ancora il post terremoto dell'Aquila. Scusa, spiegami, tu hai ripreso con i clienti dopo più o meno l'apertura ormai quasi totale? Cioè hai ripreso a pieno ritmo? No, a pieno ritmo no. Penso che riprendere a pieno ritmo sia controproducente per se stessi e per gli altri. Cioè? Cioè hai paura? Almeno questo è responsabile. E dunque faccio un esempio molto semplice. Conosco una persona, bravissima persona, ma è uno pneumologo, sta all'interno di un ospedale, ci vive, ci lavora e ci fa tutto. Per quanto questa persona possa essere responsabile, e lo è perché non mi ha chiamato se non solo telefonicamente, non mi ha chiesto un appuntamento perché lui stesso è stato coscienzioso. Di persone che so che lavoro fanno e che quindi può essere a rischio, io sinceramente non accetto l'incontro, non lo accetto di quelle persone di cui non conosco bene. Dunque fai molto meno, fai il 30%, il 40% rispetto a prima, quanto fa? Più o meno, cioè di incassi in generale di clienti. Tanti meno, anche perché li ho selezionati tantissimo, ricevo soltanto le persone che conosco molto molto bene, che so praticamente so tutto di loro. Dopo 10 anni ci sono persone di cui conosco la moglie, ma questo non significa che non possano avere il Covid, cioè non è che magari hanno incontrato qualcuno che hanno... Esattamente. Ma poi diciamo, tu sei a Roma, però, no Gaia, giusto? Sì, sono a Roma. Però naturalmente le possibilità di aver avuto contatti con persone che potenzialmente possono aver avuto o hanno il Covid inconsapevoli sono molto molto basse. In fin dei conti possiamo contrarre tra virgolette la malattia anche se entriamo in un negozio, appunto, e dico, c'è per la cui... commessa. Per cui secondo me se tu, se tu riprendi a pieno ritmo come prima non è che cambia molto. Comunque voglio capire una cosa, tu sei cambia tanto, perché se ci sono tante persone che comunque sia non sono coscienziose, quindi se a me viene la persona che come a Roma adesso c'è il focolaio a San Raffaele, so che fa il fisioterapista al San Raffaele piuttosto che il medico internista o il vabbè, i medici, allora le persone che lavorano nel campo dei medici tu le eviti, ma può essere anche no, non è che le evito, attenzione, gli voglio tanto bene, voglio bene a tutti, non faccio distinguo per nessuno, però in questo momento devo fare un distinguo, nel senso che io le persone di cui non conosco bene le abitudini, assolutamente no. C'è un amico carissimo che è stato in ospedale per altri motivi, non c'entra niente, si è rotto il piede, abbi pazienza, gli ospedali sono ambienti a rischio, gli ho detto ci rivediamo quando... il tutto sarà più caro. Te lo potrai permettere, significa che te lo puoi permettere. Senti, non ho capito, ma tu hai una partita IVA? Sì, me la sono aperta e ma con che titolo? A che titolo? Spiegami. Servizi alla persona non diversamente classificabili, non mi ricordo quali sia. Servizi alla persona. Dunque tu sei pronta in realtà a versare le tasse. Ci sono riuscita. Ma magari me le fa. Purtroppo. Servizi alla persona, qualcosa dovrai dichiarare. Servizi alla persona. Certo, tutti quelli che mi chiederanno la fattura, quindi che saranno disponibili. Ma chi te la dà? La fattura? No, c'è qualcuno che già me l'ha chiesta. C'è qualcuno che ti chiede la fattura? Cioè, sì, che viene da te, ti dà 100 euro, 150 per la prestazione e tu gli fai la fattura? Certo. Ma è incredibile se l'incasso e ho una partita IVA con quel codice Ateco, poiché è un servizio quello che offro che non è inquadrato con un codice Ateco specifico, perché non c'è, viene inquadrato come servizi diversi alla persona. Il servizio alla persona. Beh, straordinario, servizio alla persona, servizio un po' particolare, 90 non so cosa. Senti una cosa, ma la tua tu sei un po', diciamo, come si dice in termine tecnico, sei un po', non dico in sovrappeso, sei una di quelle prostitute che ha BBV, esatto, BBV. Big Beautiful Woman. BBV, non è BMW, è un po' in carne, diciamo, Big Beautiful, cioè attrae una serie di persone che amano il grasso, diciamo, più o meno amano il grasso. No, aspetta, grasso e fetta, no. Quanto pesi? Quanto pesi? Oh mamma mia, l'età e il peso di una donna non si chiedono mai. Il peso, è come se ti chiedessi quanto è lungo il suo pisello. E io te lo dico, te lo posso pure dire, non c'è problema. Vabbè. Non è la lunghezza che conta, ma come lo si usa. Sì, ma la tua specialità qual è? La tua specialità per i clienti, diciamo, quella per cui sei più riconosciuta. Ce n'è una in particolare o no? No, non ce n'è una in particolare, ce n'è più di una, però quello che apprezzano tutti è il fatto che comunque sia li metto a loro agio e quindi si sentono liberi anche di chiedermi cose che normalmente non mi avrebbero mai chiesto. Tipo? Infatti, ultimamente gli uomini non amano dire che loro adorano la sodomia, quindi comunque il massaggio prostatico. Ultimamente persone che io sapevo gli sarebbe piaciuto, ma comunque si astenevano dal dire no, a me non piace. E che fai, con le dita o con oggetti? Con entrambe, sia con le dita. Diciamo iniziamo prima con qualcosa di soft, con le mani, comincio a sfogliare vicino il buco del culo e dopodiché e poi se loro vogliono andare oltre io vado oltre. C'è sempre più richiesta da questo punto di vista? Sì, c'è più richiesta perché praticamente dopo questo lockdown tante persone si sono un po' come riscoperte e proprio oggi è venuto un caro amico, carissimo amico, tra l'altro anche conterraneo, che mi ha detto, dopo 3 mesi mi sembra di essere ritornato ragazzino e io gli ho detto perché? Dice perché mi sembra di averlo fatto per la prima volta. Diciamo che questa riapertura nel mio settore corrisponde quasi ad una rinascita. E dunque se l'è fatto mettere dietro, diciamo, si è fatto un po' sodomizzare. Ma che ambiente. Ma senti, ma invece il pissing è una cosa che frequenti, che ti chiedono o no? Sì, me lo chiedono spesso. Ti chiedono spesso, spesso il pissing. Ragazzi, chiedono spesso il pissing. È una notizia importante questa qua. I clienti di Gaia chiedono di essere praticamente che gli si pisci addosso. Che, lei sa anche per chi votano i suoi non clienti. Non solo addosso. Dove? Dipende dove, perché la cosa può essere fatta... Io sono solo attiva nel pissing. Sì. Lo si può fare durante l'atto sessuale, lo si può fare sul corpo. Anche qui è una richiesta sempre più frequente. Diciamo frequente, no, questa cosa me l'hanno sempre chiesta. C'è chi ama chiedermi, ultimamente mi hanno chiesto parecchie volte se gliela facevo sul viso, sì. Sul viso, vedi, sul viso. Parenzo, tu ameresti o no? Parenzo, ameresti no, o no? Da Gaia, nemmeno da Gaia. Sono completamente sconsolato. Non... Grazie Gaia, è una forma di piacere. È una forma di piacere, ti abbraccio Gaia, ti abbraccio. Così, un abbraccio a voi. Vai da Conte, italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid.